Con Giulio Casadei, direttore della 24esima edizione del Mad Film Festival a Roma dal 9 al 18 novembre. Giulio, ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Ci presenti questa edizione? Un'edizione particolarmente ricca, questa è la 24esima del Mad Film Festival, che si svolgerà dal 9 al 18 novembre tra il Cinema Savoy, il Nuovo Cinema Aquila e il Museo Macro. In tutto abbiamo 79 film in programma quest'anno, tra lungometraggi di finzione, documentari e cortometraggi. Il programma è articolato e diviso in 9 sezioni, di cui due competitive. La sezione principale, che si chiama Concorso Ufficiale Premio Amore Psiche, vede 10 lungometraggi di fiction e documentari insieme. In generale sono rappresentati oltre 34 paesi. In programma abbiamo sia autori affermati come Amos Gitai, ad esempio, sia giovani e emergenti autori dell'area. Abbiamo inoltre due premi alla carriera quest'anno, dedicato a due donne molto importanti per il cinema dell'area, in rappresentanza della sponda nord del Mediterraneo, Liliana Cavani, la grande regista italiana del Portiere della Notte, mentre invece in rappresentanza della sponda sud, la produttrice tunisina Dora Bouchoucha. Inoltre, quest'anno assegneremo, come di consueto, un premio speciale, che è il premio Koinè, di norma assegnato ad associazioni o personalità del mondo della cultura, del cinema, dell'arte che si siano distinti per il dialogo interculturale. E quest'anno questo premio verrà assegnato da Amnesty International nell'ambito della cerimonia di apertura. La persona che lo consegnerà è una figura d'eccezione, cioè Ilaria Cucchi. Ricordiamo anche qual è la vocazione del festival. Assolutamente, il festival nato 24 anni fa per promuovere il dialogo interculturale e in generale per promuovere le cinematografie dell'area mediterranea, quindi sia i paesi del sud Europa, sia i paesi dell'area balcanica, così come quelli del Maghreb e del Medio Oriente. L'idea quindi è quella di dare visibilità, offrire visibilità al miglior cinema dell'area. È prevista anche la presenza di autori e autrici? Autrici, sì, tantissime. Da qualche anno che il festival dà un'importanza speciale alle registe dell'area. Quest'anno dedicheremo una sezione ad hoc a loro, una sezione che si chiama Rather Be Horizontal Women in Film, organizzata e curata da Veronica Flora. Un programma che vede 11 film in tutto, capitanati da due lungometraggi, uno tunisino che si chiama L'amour des hommes, dove la protagonista è Afia Erzi, la grande attrice di Kechiche, e l'altro invece è un film israeliano, Red Cow, che è il fresco vincitore del Festival di Gerusalemme, che è il festival più importante di Israele. In più, poi, in generale, ci saranno tantissime registe disegnate in tutte le sezioni. Come sarà strutturato il festival nei tre differenti luoghi? Allora, sostanzialmente, la maggior parte delle proiezioni si svolgeranno al Cinema Savoy, a partire dal 9 novembre fino al 16 novembre, dove ci sarà la cerimonia di chiusura. Poi il 17 e 18 novembre verranno programmati in replica quattro film al Nuovo Cinema Aquila, mentre invece per quanto riguarda il Museo Macro, durante tutto il festival, quindi tra il 9 e il 16, si terranno una serie di eventi collaterali, in particolare le letture dal Mediterraneo, organizzate dalla Nincione Edizioni, che quest'anno avrà come main focus la graphic novel e il fumetto, e poi ancora i Mad Meetings, che sono incontri professionali finanziati e organizzati in collaborazione con Lazio Innova. E poi ancora un incontro speciale con gli studenti della Giulia Metexis. La Giulia Metexis è una giuria molto particolare, è la giuria ufficiale del concorso cortometraggi ed è composta da un gruppo di studenti diplomandi delle scuole di cinema dell'area, insieme con un gruppo di detenuti di uno degli studi di pena aderenti a questo progetto, che di solito è Re Bibbia. E insieme sostanzialmente deliberano quello che è il vincitore del concorso cortometraggio nell'ambito di un'assemblea plenaria che si tiene all'interno di Re Bibbia, di solito 1 o 2 giorni prima della cerimonia di premiazione. E quindi dicevo, ci sarà un evento speciale dedicato a questo progetto che si svolgerà dentro al Museo Macro. Indicativamente, quali sono le fasce orarie delle singole giornate? Allora, escluso il 9 e il 16, dove ci saranno solo le proiezioni di apertura e di chiusura, tutte le altre proiezioni si svolgeranno a partire dalle 15.30 e fino alle 22. In chiusura diamo i riferimenti web per la programmazione? Sì, allora potete trovare tutte le informazioni sul programma sia sul sito ufficiale del festival www.medfilmfestival.org o anche sulla nostra pagina Facebook. Poi abbiamo anche i canali social come Instagram. Comunque, per tutto ciò che riguarda le informazioni sul programma, invito gli ascoltatori a consultare il sito web o la pagina Facebook. Volevo aggiungere solo un punto sulla politica tariffaria del festival, ci teniamo molto. Prezzo intero per le proiezioni di 5 euro, poi abbiamo una riduzione di 1 euro per gli under 26, gli over 65 e i possessori di bibliocard, e poi una serie di eventi invece che sono completamente gratuiti. Penso alla cerimonia di apertura e di chiusura del festival, che è inviti, e poi le tre proiezioni del premio Lux, che sono completamente gratis, così come tutti gli eventi paralleli che si svolgono al macro. Bene. 24esima edizione del Mad Film Festival a Roma, in tre differenti spazi, dal 9 al 18 novembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Giulio Casadei. Un saluto e un ringraziamento, un in bocca al lupo. Credi il lupo, grazie a voi. A presto. A presto.